Mangia come parli, mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Chef, come stai? Bene, bene. Quinta puntata, siamo. Come... Ci arrivano una marea di messaggi, anzi, ricordiamo 349-238-6666 anche per i vostri SOS Oldani, segreteria telefonica 02-46-52-41-84, la pagina Facebook. Abbiamo parlato di funghi, di pomodori, di baccalà. Oggi di che riso. Parliamo? Oggi parliamo di carni rosse. Ah, carni rosse, quindi bistecca fiorentina, cose simili? Assolutamente sì, e tutte quelle parti, vitello, manzo, ovini, qualcosa, insomma. Daremo giuste informazioni su quello che è la carne rossa, che è forse la carne più mangiata. Tema di grande interesse, anche un po' divisivo, perché c'è anche chi non l'ama particolarmente, ci sono anche delle questioni legate alla carne, ma insomma, bistecca fiorentina, diamo il benvenuto al primo grande ospite che è Matteo Renzi. Come va? Buongiorno. Com'è la Fiorentina? Poi magari parliamo anche della Fiorentina intesa come squadra, ma insomma Matteo Renzi è stato, oltre al Presidente del Consiglio, anche sindaco di Firenze. Che cos'è? Direi soprattutto sindaco soprattutto di Firenze. Poi siamo stato anche così, non passando Presidente del Consiglio, ma soprattutto sindaco di Firenze. Ecco, direbbero i fiorentini. Che significa questa, che cos'è la bistecca fiorentina per Firenze? Che cosa rappresenta? Beh, è sicuramente uno dei segni identitari. Lei si ricorda che qualche anno fa, ormai quasi un decennio, più di 10 anni fa, la Fiorentina, la bistecca alla Fiorentina fu bandita dalle tavole dall'Unione Europea in un momento di preoccupazione per la cosiddetta mucca pazza, ricorderete. E niente, Firenze fece il funerale della bistecca, sì. Cioè come se si perdesse un caro amico. Poi naturalmente la bistecca è tornata, è viva e lotta insieme a noi, ma è un segno identitario non soltanto dal punto di vista della carne, che poi non è ovviamente soltanto della provincia di Firenze, la Chianina per esempio è della provincia di Arezzo, della Val di Chiana, nella zona tra Arezzo e Siena, ma è un modo di cottura e direi anche uno spirito. Cioè se tu porti la Fiorentina, quando ti dicono una Fiorentina cotta tanto... Già sta, è roba d'acquerele. Roba d'acquerele. Sentiamo lo chef. La Fiorentina cotta tanto. Chiedessi al presidente, ma una volta mi ha servito una Fiorentina con solo la parte del controfiletto. È normale chiamarla così o ci deve essere anche il filetto? Perché queste nuove generazioni travisano anche un po' l'identità del prodotto. Volendo Renzi, c'è anche non so, non risponde come opzione. No, io mio nonno faceva il mediatore di animali, per cui ho una certa cultura sull'argomento. La domanda la faccio per piccoli, quello. Da piccoli noi ci buttavamo sul filetto e il nonno ci guardava con disgusto, perché il filetto era come se non fosse la bistecca, cioè in altri termini il filetto, che è la cosa un po' più pregiata, tenera se vogliamo, è pregiata, però non era la vera bistecca. Il nonno ci ha insegnato a mangiare la bistecca dicendo che il pezzo migliore della bistecca è quello all'osso, quando inizi con il coltello a raschiare veramente tutti i pezzettini intorno all'osso. E poi naturalmente il filetto è una cosa molto più apprezzata. Il filetto e le patatine sono comunque... No, la cosa curiosa è che hanno fatto il funerale a Fiorentina e poi non l'hanno fatto al T-Bone Steak, che praticamente sono le due parti uguali, è la stessa identica cosa. Ma facendo però era l'idea. Cioè, dopodiché, tra l'altro, per Firenze non è tanto la bistecca il piatto tipico, secondo me, cioè lo è ovviamente nell'immaginario collettivo, ma Firenze ha una cultura alimentare più legata, che so, alle zuppe, alla pappa col pomodoro, alla ribollina, che sono... realtà anche suggestive, cioè sono piatti poveri, piatti della povera gente, piatti della civiltà contadina, che mettono insieme gli avanzi della settimana e che sono diventate oggi delle prelibatezze, per cui oggi fa figo andare a mangiare la ribollita, anche fa figo per dirla alla Fiorentina, perché figo si dice dalle parti di Davide a Milano, figo a Firenze, però in realtà la ribollita o la pappa col pomodoro sono piatti tipici della così cultura come, povera. Della così cultura come povera. L'insalata di rinforzo napoletana, che sono tutti quei piatti che si riprendono poi noi cuochi, adesso ci divertiamo un po' di più nella cucina, dove mettiamo un po' di artigianalità, un po' di inventiva, po'. Li rielaboriamo e naturalmente li rialleggeriamo. Ma io ho una curiosità legata ai viaggi, ai meeting internazionali. Cioè, per esempio alla Casa Bianca, non so se Matteo Renzi ha mai mangiato, come si mangia nei meeting internazionali all'estero? Dalla Merkel, dividiamo, nel senso che Casabianca abbiamo fatto un paio di volte, una volta a pranzi di lavoro, una cosa molto all'americana, con addirittura tovagliette nel tavolo quasi dell'ufficio di lavoro. Abbiamo fatto un paio di visite e con il presidente Obama, allora c'era Obama, e poi vabbè, la cena di gala era invece la cena di gala per la visita di Stato, quella di qualche mese fa, che forse ricordate, era tutta una cosa molto più ricercata, con peraltro un incrocio tra la cultura italiana e americana dal punto di vista del cibo, cultura per la quale, diciamolo così sommessamente, diciamo 6-0-6-0, ma questo non emergeva la parte vegetale, oppure c'era qualcosa di carne, visto la predisposizione di Michelle Obama? No, c'era anche la carne, adesso non ricordo di preciso il menù, ma c'era anche la carne, c'era anche questo nella cena, però banchetto ufficiale, che vuol dire banchetto di invece Stato. Il pranzo di lavoro è una roba molto informale, molto Obama informale. Sembra anche un uomo abbastanza informale, diciamo, poi, no? Proprio... poi sì, beh, naturalmente poi dipende da chi è l'ospite, qual è il presidente che ospita. Al Consiglio europeo si mangia molto ricercato, ma con tutti quei piatti tipici della cultura nord europea che a me convincono il giusto. A livello di carne spesso c'è l'agnello, però insomma ora non credo che ne freghi assolutamente niente. Vorrei ricordare dove, come si mangia, che gliene fregherà agli ascoltatori come si mangia il Consiglio europeo. Presidente, volevo ricordare un altro meeting internazionale molto bello, che sono state le Olimpiadi dell'anno scorso, dove non abbiamo parlato. Che sto rosicando come un pazzo. Lei c'era, Oldani, lei ti ricorda come eravamo messi lì? Eravamo in pole position, tutti davano per scontato che avremmo vinto noi, e invece poi Però devo dire che poi in casa Italia l'abbiamo fatto vedere un po' lo stile italiano, e poi l'abbiamo rappresentato in tutto il mondo con la cucina che si faceva. Casa Italia, ricordo, in Brasile, no? Casa Italia a Rio. Casa Italia, Oldani ha fatto delle cose straordinarie. Tra l'altro, la pasta al pomodoro, le penne, cos'erano? Le castellane, fantastiche. Sono molto felice che si ricorda di questo piatto. Non lo ricordo bene, era veramente con un sughino fantastico. E c'erano tutti gli ospiti a bocca aperta, perché l'Italia è anche questo, dai, cioè, come dire, possono cercare di copiarci su tutto, ma noi la fanno. E il punto è che, per esempio, alle Olimpiadi, nella operazione molto bella che fece il CONI per Casa Italia, e non soltanto per Casa Italia, per cercare di portare i voti alla candidatura di Roma, e ripeto, Roma era in testa, la parte del cibo, Dani lo sa bene, era predominante, nel senso che la capacità di evocare bellezza anche attraverso il cibo, insomma, ci sono dei valori dentro il cibo. La bistecca, mio nonno che mi insegna a mangiare la bistecca all'osso, è un valore. La ribollita e la pappa col pomodoro è un valore, cioè l'idea di non buttare via gli scarti. Abbiamo fatto una legge contro lo spreco alimentare un anno fa con la deputata Maria Chiara Gadda e con quasi tutto il Parlamento che ha votato a favore, ma i nostri nonni, i nostri bisnonni, quella cultura del rifiutare lo spreco, non avevano bisogno di una legge per seguirla, avevano la maestria delle donne che facevano da mangiare, che si sono inventate ad esempio la pappa col pomodoro. Ce l'avevano, diciamo, nel loro DNA. Ci fermiamo un attimo per il traffico e poi torniamo a parlare, perché io poi voglio capire se in campagna elettorale si dimagrisce o si ingrassa, che mi sembra un tema fondamentale. Traffico. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Mangia come parli, mangia come parli. Eccoci ancora, Mangia come parli, vi ricordo 349-238-6666 per i vostri messaggi, per i vostri SOS Oldani. Insomma, le campagne elettorali, referendarie, insomma, si fatica, si ingrassa, si dimagrisce, si mangia a orari sregolati. Come ci si comporta in quei casi? Si fa jogging? Abbiamo visto Matteo Renzi spesso fare jogging, no? Ma io ho un problema... ingrasso facilmente, poi mi basta un po' di pasta, che peraltro adoro, o pizza, o comunque che immediatamente gonfio come un tondo, però ovviamente la campagna elettorale è un'occasione nella quale io non ho mai visto nessuno dimagrire in campagna elettorale. Poi sarà che sono io strano, ma insomma, mangi dappertutto a tutte le ore, arrivi alle 11:30 di sera, ti hanno fatto magari una tipica cenettina calabrese, di quelle leggere, tranquille, dove per niente per sapori niente leggeri, sì, una di quelle robe, così, che fai? Certo. non favorisce, mi sembra del tutto evidente. Quindi no, io credo che il grande Totò sia sempre insuperabile. A proposito di politica, ci sarebbe qualcosa da mangiare? Ecco, quello è sempre il top delle, esatto, delle situazioni. Il tema è molto, molto legato. Invece dal punto di vista politico, però complessivo, che cos'è che, lo chiedo anche a Oldani, che, perché spesso si parla di questo famoso parmesan, no? Qualche volta viene associata all'Europa l'idea che butti tutto un po' in caciara, come diciamo noi a Roma, e che le grandi eccellenze italiane spesso vengano confuse con prodotti che non hanno niente, ovviamente, di simile. Solo il sound, hanno solo il sound che provano, perché comunque il sound italiano è quello che ha più, che funziona, che vende, è quello che va meglio, però poi alla fine il prodotto non c'è, il prodotto non c'è, e piano piano qui in Italia vedo che si sta lavorando molto per identificare bene, come hanno fatto ahimè i francesi molti anni fa, nell'identificare bene il prodotto italiano, nel farlo rispettare all'estero. Devo dire che rispetto a 30 anni fa, quando ho iniziato a cucinare, adesso c'è una tutela di prodotti assolutamente assolutamente importante. Una cosa, Presidente, cosa ne dice? Una piccola provocazione. Si parla di sprechi e di recupero di questi sprechi, quindi è assodato che ci siano e che vadano recuperati, e quindi questo deve essere fatto. Io le lancio una piccola chicca che ho, che penso da un po' e che ho trascritto poi nei miei libri. Perché non si può iniziare a pubblicizzare o a parlare del produrre meno o produrre il giusto per quello che sono le esigenze? Il tema è molto complicato e molto serio, anche perché produrre meno implica dei controlli e delle regole. Non proprio, Presidente, perché produrre meno secondo me vuol dire anche seguire molto la stagione, quello che dicevano i nonni, quello che ci facevano mangiare. È molto serio imparare a rispettare, se vuole, il dominio del tempo, della stagione, della natura. Che sembrano banalità, però anch'io, avendo assimilato dalla mamma questa voglia di fare l'economia domestica nel comprare il prodotto di stagione, perché? Perché più ha un valore di gusto molto più alto e un costo inferiore. Secondo me questo bisognerebbe fare e spingere con la politica. Assolutamente, però stai in un mercato globale nel quale questo principio è giusto e che probabilmente passa anche da una certa impostazione di educazione. È un principio che si scontra con la realtà in cui tu entri al supermercato e trovi tutte le stagioni, che so, tutti i frutti diversi. Perché? Perché ormai il mercato globale e anche utilizzo, direi talvolta eccessivo dal mio modesto punto di vista, delle nuove tecnologie. Allora come si risolve? Con una proibizione normativa al tempo della globalizzazione? Credo che sia piuttosto importante investire sull'idea dell'educazione alimentare. Esatto. Spiegare che sia giusto mangiare in un certo modo, che questo ci aiuta anche dal punto di vista della salute, che se noi siamo un paese che invecchia, fortunatamente, perché l'età media si allunga, significa che viviamo un po' di più, non è mica una brutta notizia, anzi, certo. Come dire, una certa cultura alimentare ci aiuta a invecchiare meglio. Questo tema ha necessità di prendere atto che c'è una grandissima attenzione finalmente sul cibo, bello questo, che non è le trasmissioni televisive dove magari uno si esalta l'idea di fare lo chef. Io 25 anni fa a scuola mia, se dicevo che volevo fare lo chef, ero preso per matto. Oggi invece lo chef è un figo, diciamo la verità, figo, soprattutto cioè, Dani ovviamente con questo liceo, certo. I miei figli vanno al liceo e, come dire, fanno i gruppi di ascolto per le trasmissioni televisive o per le discussioni sul cibo. Bene, a fronte di questo c'è bisogno di un sistema paese che aiuti l'educazione e, lo diceva prima lei, Pardo, ma lo diceva anche Oldani, il tema del sounding, dei prodotti che suonano italiano, è un pezzo, una parte di questo ragionamento. Do soltanto delle cifre. Noi abbiamo un mercato nel mondo che è stimato in 90 miliardi di dollari, che stima in 90 miliardi di dollari il fatturato complessivo dei prodotti che hanno un nome che suona italiano. Cioè, non c'è soltanto il parmigiano, una cifra gigantesca, certo. C'è l'olio d'oliva. Bene, di questi, l'olio d'oliva, c'è l'olio magari cileno, che però per venderlo meglio mettono il bianco, verde e rosso nell'etichetta. Chiaro, perché chiaro. L'Italia comunque è bella, è smart, è forte. E speriamo che tiri sempre di più. Un saluto a Matteo. Aspetta, questo è importante. 30 miliardi erano i prodotti realmente italiani su 90 miliardi 5 anni fa, ora siamo a 38 miliardi. Se noi riusciamo ad arrivare a 50 miliardi, forse possiamo creare posti di lavoro e orgogliosi l'orgoglio italiano, che è uno dei grandi obiettivi che abbiamo. Quindi non soltanto un'eccellenza dal punto di vista del gusto, ma anche dal punto di vista dell'occupazione, dal punto di vista dell'economia e dello sviluppo del paese. La salutiamo. Grazie. È ancora a mattina, voi. Ma già mi è venuta fame con tutto questo, con tutta questa carne, questa tradizione italiana e questa eccellenza italiana. A proposito, mi vuoi già accennare la ricetta? La ricetta che dovrò cucinare, guarda, la stavo, poco. È customizzata per te. Ogni customizzata. Ah. È fatta per te. Io starei sul facile. Sì. Leggero, quindi parliamo di carni rosse, ti prendo la parte più pregiata, sì. Il filetto e che ci facciamo? Io farei una, chiamiamo tartare cruda, buona. So sì. Che ti piace, tagliata, condita leggermente con un velo leggerissimo di olio extravergine, un sì. po' di sale a scaglie, sì. sai che a me piace molto, sì. e poi il tocco dolce che è quello di un frutto, mi viene in mente in questo periodo un po' di uva. Oppure un fico. Dove che lo mettiamo bene... quest'uva e questo Beh, fico? Solo condito anche lui con un goccio di olio, un goccio di sale, appoggiato sopra questa carne che avrai tagliato con un coltello a lama. Qui molto non devo tagliente. Fare niente, semplicemente non la, devi farlo bene, devo farlo bene. Ti suggerirei magari di non stare nel classico tartare dove potresti aggiungere il tuorlo d'uovo crudo, eliminerei. Al limite un tocco di erba che può essere la nepetella o la maggiorana. Beh, la nepetella, me lo scrivo nepetella, non so neanche cosa sia. Senti, prima Renzi diceva che è una bestemmia la carne troppo cotta, è una bestemmia in assoluto? No, cioè assolutamente, se mi servi un filetto ben cotto è più di una bestemmia, ma se mi servi un guanciale, un cappello del prete, una coda... deve essere ben cotta. Poi parliamo delle carni stracotte, il brasato al barolo per esempio, ne parliamo degli ovviamente stracotti. Fra un attimo degli stracotti, ma intanto io do un grande saluto a Simone Fracassi, macellaio, proprietario dell'omonima macelleria Fracassi di Rassina nel comune di Castel Fogognano, provincia di Arezzo, aperta nel 1927. Simone, così? Simone, è così, ciao. È così. Ciao Davide. Che cos'è la carne per te, per voi, che cos'è? È una passione, la definirei passione carnale. Senti, fra un po' sentiremo una persona che ha detto di no alla carne. Sappiamo che c'è una fetta anche importante della popolazione, comunque significativa, che fa altre scelte, e ascolteremo anche quel punto di vista. Ma tu come la vivi questa situazione? C'è stato un calo, magari nella tua macelleria? No, perché ovviamente insomma stiamo parlando di un'eccellenza. Allora, partiamo dal presupposto che nel mondo il cibo... l'80% dipende in quale settore, l'85%, il 90% è adulterato, non è tanto salubre, qualunque esso sia, lo ripeto due volte, per cui la gente deve informarsi, deve documentarsi, deve essere curiosa, domandare, andare in giro come si fa per altri prodotti, e farlo col cibo è a maggior ragione, perché è salubrità. Da non confondere con la qualità, perché la qualità del mio nonno era ciò che faceva bene all'organismo, o se compravi un'automobile, un'auto, dicevi questa era di qualità perché faceva tanti chilometri senza rompersi. Oggi la qualità è ciò che piace a me, ciò che piace a te, è un qualcosa di soggettivo e non è vero che può essere di qualità in essere. Allora facciamo un distinguo, cibo salubre e cibo meno salubre, e forse in questo modo riusciamo a educare ancora meglio. Senti, questa quindi cosa, si questa può cosa... essere vegetariani, vegani, carnivori, l'importante è sapere ciò che mangiamo, cercare la qualità, assolutamente, che sia salubre. Mi sembra un ottimo messaggio, poi lo riporteremo ovviamente a Giulio Innocenzi, con la quale parleremo dopo. Questa cosa che chi vuole acquistare una costata di chianina deve comprare però anche gli altri tagli dello stesso animale, per far apprezzare a tutti anche le parti meno nobili, mi sembrava interessante. E che cos'è la chianina? Perché la chianina è un'eccellenza? Ma la chianina innanzitutto è una razza bovina, non è una fiorentina, non è una costata, è una razza. Questa razza ha delle caratteristiche, le caratteristiche in primis sono quelle per cui è nata, vale a dire da lavoro, sostituiva il trattore prima dell'avvento del trattore, quindi è una carne che si presenta così come le altre razze a manto bianco in Italia, dalla marchigiana, la podolica, la romagnola, hanno questa struttura elastica della carne, le fibre sono elastiche, quando tu hai spazio tra fibra e fibra si presentano delle cartilagini, sono quelle che danno l'elasticità, ma se tu fai carne per mangiare danno anche durezza, la carne è un pochino più dura. Però nella carne, scusami Simone se intervengo, nella carne dici cartilagine, ma in un filetto marmorizzato o mi viene in mente un Kobe, non c'è cartilagine, ci sono solo delle venature di grasso. Assolutamente confermi. No, io ti parlo di muscoli che lavorano. Okay, il filetto nell'essere bovino il filetto è l'unica parte che non lavora. Ecco, ma raccontaci un po'. Nell'essere umano, che sarebbe il retto spinale, è l'unica parte invece che lavora. Esatto, ma raccontaci un po' perché quando io compro un filetto marmorizzato, se il termine me lo consenti, ci sono queste venature grasse e rendono la carne appunto ancora più morbida. Tanto più morbida, la rendono semplicemente più saporita. Beh ragazzi, siete a un livello troppo alto, io a malapena conosco la differenza fra filetto, contro filetto e tagliato, anzi la vogliamo spiegare ai nostri amici da casa? Okay. Allora. Il filetto è la parte meno nutrizionale che abbiamo in un bovino. Okay. Perché? Perché è lontano dal collo dove passa più sangue e perché è il muscolo che non lavora. Sì. Di conseguenza è tenero. Sì. Ma come nutriente ne ha molto meno di altre parti che lavorano. Sì, è una cosa sana, diciamo, per capirci. Sì, va bene. Allora, che io cosa il filetto, okay. Perdonatemi, il filetto si dà alle persone anziane che hanno perso i denti magari e che hanno già provato i sapori e quant'altro e quindi cercano solo il tenero. Ma se dovessi dare a mia figlia, a un bambino, allo svezzamento e quant'altro, il filetto è la cosa più sbagliata. Se dovessi riassumere in 15 secondi, insomma, il messaggio che arriva è un messaggio che ogni parte e ogni cibo ovviamente ha pieno valore e piena dignità, l'importante è cercare e vale dagli ortaggi alla carne la qualità, la professionalità in chi fa l'allevatore o in chi cura un prodotto. Questo mi sembra. Simone, giusto per un'economia, il filetto è la parte che costa di più della bestia, vero? È il filetto che è la parte che ce n'è meno. Ok. È circa lo 0,2% del peso dell'animale e soprattutto è la parte sì che costa un pochino più, proprio dovuta che ce n'è poco e c'è molta richiesta. E che io sconsiglierei, ecco. Okay. No. Beh, insomma, è così. No, dai. Ma lui è per parti meno nobili, ma più di sostanza. No, mi devo fermare, ragazzi, mi devo fermare perché devo andare in fascia. Ci fermiamo. Grazie a Simone Fracassi, però mi sembra chiarissimo. Grazie, Simone. Il concetto, e ovviamente, insomma, complimenti perché dal 1927 voi continuate a farci mangiare della ciccia piuttosto buona, come si dice da quelle parti. Ci si ferma e poi si torna, però, con l'SOS Soldani e tutto il resto. Mangia come parli. Bentornati a Mangia come parli. Dopo Matteo Renzi e dopo Simone Fracassi, adesso fra poco sentiremo la voce di qualcuno che dice no alla carne, perché sapete che il tema è molto divisivo. Vi ricordo il numero 02 46 52 41 84 della segreteria telefonica per i vostri SOS Soldani, i vostri WhatsApp al 349 238 6666, la pagina Facebook. Ma mi spieghi un attimo, perché io veramente sono molto indietro nel programma, ribadisco. Quindi, allora, le carni rosse sono? Carni rosse manzo. Ci sono, allora, carne bovina con sì. Vitello, vitellone, manzo, bue e vacche. Poi c'è la carne equina con il cavallo e il puledro. Sono quelle che io non amo particolarmente. Però ci sono delle zone d'Italia, per esempio a Verona, no? Ad esempio anche in Emilia. Anche in Emilia è molto. Ma per esempio e poi il maiale, carni ovini, suini e caprini. Ok. Questo il maiale quindi è? È tra è rosa, le carni rosse e carni rosse. Mentre sì. Le carni bianche ovviamente sono pollo e tacchino con caratteristiche volatili, molto diverse. Tutti anche bianche. La selvaggina anche può la essere. Selvaggina può essere considerata. Pelo e piuma. E invece scusa, mi parli un po' degli stracotti, perché l'abbiamo prima accennato il tema. Allora, mentre è un'eresia ovviamente con un filetto o con comunque una tagliata andare in ipercottura, ci sono delle carni che si prestano particolarmente alla... Allora, bisogna fare la differenza. Allora, ci sono alcune tipologie di carne come il filetto, il controfiletto, quindi assieme formano il T-bone steak o la fiorentina, come cosa ti posso dire, lo scamone. Sono tutte carni che devono essere tenute rosa, quindi okay. Quando hai una cottura rosa hai un succo all'interno che la rende morbida e gustosa e non hai bisogno di salse. L'altro discorso sono quelle delle lunghe cotture, che possono essere gli arrosti o i bolliti brasati, con le salse, stufati, no? No, aspetta, brasati, stufati, e sono quei pezzi di carne che hanno una cartilagine all'interno o del grasso eccesso. Ti parlo del biancostato come grasso, ti parlo di cartilagine nello stinco, nel cappello del prete, nel guanciale. Che è sto cappello del prete? Cappello del prete è una parte della bestia che ha questa cartilagine all'interno che non è grassa, ma rende molto morbida la carne, ma la rende morbida nel momento in cui tu la stracuoci. Quindi brasato al barolo, per esempio. Allora, cosa ecco, allora io direi, quando diciamo andiamo a mangiare un buon brasato al Barolo. Io direi, specificherei, andiamo a mangiare una grande salsa al Barolo, nel caso del vino, e una carne che ha lasciato tutto di sé nella salsa. Per quello che le salse sono i pilastri della grande cucina. Questo lo scriveva Escoffier nel 1860. Chi? Escoffier? Proprio Escoffier. Lui? È un mito, è colui che ha codificato la cucina internazionale. Escoffier. Quindi le salse, pilastri della grande cucina, devono essere abbinate a quelle carni che hanno una lunga cottura. Allora, io poi nella ricetta cercherò di ricordarmi come si fa questa benedetta tartare, che amo fra l'altro tantissimo, ma un'altra cosa che amo da matti è il vitello tonnato, che per me è una cosa. Anche questo, un altro esempio. Dacci una ricetta sul vitello tonnato. Di una salsa, vedi che anche qui cadiamo sulla salsa che sostiene un piatto. Allora, io direi che un vitello tonnato moderno potrebbe essere fatto tranquillamente con un filetto di vitello, naturalmente, con una cottura molto rosa che può essere o al vapore o leggermente bollita, non arrostita, perché poi c'è una salsa molto elegante, molto delicata, qual è la salsa al tonno. Okay. Quindi una volta che tu hai cotto, hai cucinato questo tuo filetto di vitello con l'interno rosa, arriviamo sul 53-54 gradi al cuore del filetto, okay, per capire la temperatura, sì, e poi lo tagliamo in maniera invece, sottile, leggera, okay, abbinata e a questa salsa. E la salsa invece come la facciamo? La salsa io la farei con un po' di verdura, un po' meno olio, giusto per renderla più leggera, quindi un tonno frullato, qualche cappero e qualche acciuga, come fa la mia mamma, e poi aggiungerei il tocco più delicato, che è una purea neutra di sedano rapa. Ma perché vi piacciono così tanto capperi e acciughe? Perché? No, perché sta nella tradizione, non bisogna esagerare. No. Non ti piace? Sì, mi piace la matti, okay. Sto nella tradizione. Quindi voglio dire, è quel tocco. L'unica frase che non mi è piaciuta è non bisogna esagerare, con le quantità, con le quantità di cappero e acciuga, poi certo, il vitello puoi mangiarlo. Va bene, piatto straordinario, poi insomma siamo in autunno, quindi ormai cominciamo a pensare a queste cose. È grande carne, ma c'è anche qualcuno che dice no. Giulia Innocenzi, come stai? Benissimo, voi? Benissimo, Giulia, molto buongiorno. Bene. C'è lo chef Oldani qui. Allora, abbiamo letto Tritacarne, abbiamo visto i tuoi documentari, sappiamo ovviamente i pericoli e anche le cose ovviamente che non vanno in certi allevamenti intensivi. Mi racconti prima di tutto la tua scelta? Tu non nasci ovviamente vegetariano, nasci fra l'altro da madre inglese, da padre umbro, in Romagna, insomma zona dove la carne è qualcosa di importante, di tradizionale. Ti vedo informatissimo, Pardo, certo. ed effettivamente come te sono cresciuta a grigliate di carne, ma oltretutto essendo romagnola anche alla piada, sappiamo bene che allo strutto, con la salsiccia, il prosciutto, insomma non mi sono fatta mancare assolutamente niente. E mio papà è pure cacciatore, quindi diciamo che... Quindi c'è proprio anche un tema quasi psicanalitico perché... familiare. Poi che è successo? Ah, dici che dipende da quello. No, non lo so. Cioè. E poi è successo che ho letto un libro, come spesso succede, i libri ti possono anche cambiare la vita, e ho letto Se niente importa di Jonathan Safran Foer, che raccontava gli allevamenti intensivi negli Stati Uniti. Ero letteralmente scioccata da quello che avevo letto e mai mi sarei immaginata di poter trovare qualcosa di simile in Italia, visto che dalla mattina alla sera ci dicono che il made in Italy è sicuro, il nostro orgoglio, eccetera. Purtroppo però ho cominciato a fare l'inchiesta proprio perché mi sono detta, ma in Italia come siamo messi? E ho ritrovato l'esatto modello identico degli allevamenti intensivi americani nella nostra pianura padana. Assolutamente. Senti, Tritacarne è il resoconto di un anno e mezzo di indagini, poi l'abbiamo vista anche sotto forma televisiva. Io però vorrei chiederti, tu non sei diventata riduzionista, no? Quelli che mangiano un po' meno carne, no, perché neanche rinnega tutta la carne mangiata fino ad ora, vero? No. Beh, io non rinnego niente, ognuno di noi fa un percorso e quindi è tutto giusto quello che fai. Ecco, però secondo te com'è la situazione complessivamente negli allevamenti italiani? Qualche minuto fa con il nostro amico Simone Fracassi si parlava del fatto che tutti i cibi possono ovviamente, in tutti i cibi bisogna cercare la qualità, bisogna cercare ovviamente determinati requisiti e una professionalità da parte di chi si occupa della produzione di questi cibi. Tu che cos'è che hai visto con i tuoi occhi? Certo, però la differenza quando parliamo di prodotti di origine animale è che stiamo parlando di esseri viventi ed è per questo che adesso si fa un gran parlare di chi sceglie la dieta vegetariana o vegana, perché lì dentro, in quei capannoni industriali, ci sono gli animali e una percentuale incredibile, che è oltre l'80% dei prodotti di origine animale italiani, quindi carne, formaggio, anche dei consorzi dell'eccellenza, viene da quegli orribili capannoni che si chiamano allevamenti intensivi, che per capirci vuol dire animali ammassati uno sopra l'altro, certo, oppure chiusi in delle gabbie più piccoli del loro corpo, molti animali feriti, e ve lo sto dicendo perché l'ho visto con i miei occhi quando sono entrata negli allevamenti, soprattutto di notte, perché di giorno magari trovi un'altra situazione, hanno pulito prima che tu vai a fare la visita, e quindi è per questo che c'è oggi, è per questo che voi avete deciso oggi anche di parlare, perché stiamo parlando di esseri viventi, sicuramente. No, però mi deve scusare Giulia, mi scusi Giulia, nel momento in cui si dicono queste cose, ok, va sì, bene tutto, però nel momento in cui ho davanti delle persone vegane e vegetariane che mi dicono che il vegano è colui che mangia anche pesce, anzi solo pesce, e non mangia carne, c'è un po' di confusione anche tra di voi, cioè vegani, vegetariani. Secondo me bisognerebbe rallentare un po' questa cosa sul fatto carne, verdura o legumi, perché bisogna dare le informazioni corrette, soprattutto credo che sia, e poi è parte della storia, se ci fosse una dieta con armonica, come ci insegnavano i vecchi, quando un giorno si mangia carne, un giorno si mangiano carboidrati, un giorno si mangia frutta e verdura, credo che la nostra predisposizione al benessere sia più... Però io, se non ho capito male, leggendo il libro di Giulia, ho capito due cose: che c'è un tema di sensibilità personale nel quale poi ovviamente non si entra, cioè ci sono persone... Però non bisogna mangiare neanche il pesce. Vabbè, però quello dipende dalla sensibilità che una persona ha e rientra nell'ambito delle scelte. Invece c'è un tema, diciamo, più complessivo di salute, dove la distinzione è fra allevamenti intensivi e allevamenti invece etici e estensivi, è così? Sì, innanzitutto io penso che, appunto, come hai detto, ognuno debba fare quello che ritiene opportuno rispetto al proprio credo, alle proprie idee. Per esempio il professor Veronesi, che era cresciuto in una fattoria, diceva: io non potrei mai mangiare un vitello perché per me ha lo stesso valore di un cucciolo di cane. Detto questo, lui per esempio era un pesco vegetariano, cioè mangiava anche il pesce, ma... Io penso che ognuno di noi debba basare le proprie scelte sulle proprie idee, certo, e nessuno deve giudicare gli altri, perché poi in questo periodo c'è anche un gran puntare il dito. E poi dobbiamo prendere atto del fatto che gli allevamenti intensivi sono totalmente insostenibili. Per quanto mi riguarda, dal punto di vista etico, per le condizioni in cui alleviamo gli animali, dal punto di vista ambientale sono delle vere e proprie ecologiche. Pochi giorni fa Schivenoglia, in provincia di Mantova, un paesino di 1000 abitanti, ha votato contro l'apertura di un allevamento intensivo da 10.000 maiali, perché nessuno vuole un allevamento intensivo vicino a casa, perché le condizioni poi dell'aria e delle acque peggiorano drasticamente. Certo. E poi è una questione di salute, un problema su tutti: l'antibiotico resistenza. Noi imbottiamo questi animali di antibiotici per farli sopravvivere, e poi dopo questi antibiotici non funzionano più sugli esseri umani. Assolutamente. Va bene, quindi doppio tema: tema etico, ovviamente, di sensibilità personale, e tema invece di salute e di rispetto di regole e di ricerca dell'eccellenza. Grazie a Giulia Innocenzi, ci sentiamo presto. Giulia. Ovviamente. Grazie. Giulia, e adesso stiamo per arrivare al momento chiave, al momento della ricetta, al momento della canzone. La ricetta oggi è facilissima, ma soprattutto al momento dell'SOS Oldani. Fra un attimo. Ferkam Air & Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Ferkam.com vi presenta. Mangia come parli. Oh, siamo arrivati al momento chiave della puntata, al momento più atteso, il momento che è già caldo, il momento nel quale i vostri dubbi, le vostre perplessità, le vostre curiosità, le vostre fantasie alimentari, gastronomiche possono trovare soddisfazione con lo chef Oldani. 349-238-6666, i vostri sms via WhatsApp, i vostri WhatsApp in pratica, oppure 0246-524184 per una più tradizionale segreteria telefonica. Partiamo con il momento dell'SOS Oldani. SOS Oldani. Pronto chef, sei pronto? Partiamo. Pronto, ci siamo. Antonio da Cormano, eccolo. Buongiorno Davide, buongiorno Pierluigi. Vi chiedo: ogni gran risotto prevede una base di parmigiano reggiano? Grazie, Antonio da Cormano. Ogni gran risotto prevede un grande riso come base. Io direi un riso di una stagionatura oltre i 18 mesi. Sono risotti pure quelli col pesce, no? È chiaro. Dove non però, c'è parmigiano. Quindi alla base io direi un consiglierei un risotto, un riso. Ecco, scusa, perché non dici stagionato. La parola risotto tu? Cioè, ma perché perché è un modo di definire un piatto, secondo me, vecchio. Vecchio. Il riso per me è un foglio bianco, e su questo foglio bianco ci possiamo mettere del pesce, della carne, delle verdure, del formaggio, del grana padano, del parmigiano. Assolutamente. Abbiamo parlato tutto. Due settimane fa con Jerry Scotti, con tutti gli altri, ma insomma magari ci torneremo anche in una delle prossime puntate. Laura da Milano. Buongiorno, volevo chiedervi, secondo voi, qual è un modo semplice ma buono per cucinare il maiale e non ritrovarsi a mangiare una suola di scarpe? Grazie. Dipende dalla parte che si vuole cucinare. Io ti dico, al giorno d'oggi un filetto di maiale o una lonza di maiale può essere cucinata rosa, quindi mantenendola un po' o leggermente al sangue, altrimenti se fosse uno stincolo lo prevederei con una lunga cottura, quindi morbido e buono e gustoso. Morbido, lento, no, questo con concetto. La salsa, perché è una lunga certo. cottura e recuperiamo la salsa. Mi piace questo concetto del tempo, anche se la ricetta che fra poco dovrò fare invece in realtà è una ricetta molto veloce, di grande, te, l'ho pensata di grande per precisione te. Scientifica. Marco da Torino. Chef, mi sa dire il modo migliore di cucinare il petto d'anatra per far sì che resti tenero? Certo, io comincerei a cucinarlo con un goccio di, con un tocco di burro in padella, un burro salato, dalla parte della pelle per 8-9 minuti, dopodiché lo girerei sulla parte della carne e lo infornerei per altri 3-4 minuti. La cosa importante è, quando lo si leva dal forno, farlo riposare su una griglia per far sì che si distenda ancora, e quando lo si taglia non perda tutto il sangue, così rimane tenerissimo. Così rimane tenerissimo. Invece sentiamo Paola da Roma. Chef, mi consiglia un piatto completo adatto a tutta la famiglia, sia genitori che bimbi? Grazie. E qua mi viene da dire di utilizzare un piatto che può essere una pasta o un riso e abbinare quello che è o una verdura o una carne o un pesce. Quindi alla base terrei un carboidrato. Ecco, quindi carboidrato, questa è una delle parole per me più belle in assoluto. Carboidrato, una parola, senti come sono, carboidrato, fantastico. Va bene, è arrivato il momento dell'esame, la ricetta. Abbiamo una sigla? Abbiamo la sigla? Ah, beh, senti che sigla, eh? Fra un po' mi scaderò con la canzone. Bene, chi è? C'è qualcuno al telefono? Chi è? Pronto? Pronto? Pronto? Oddio, ancora? L'hai richiamata? Cioè, ma che cos'è? Una tortura! Ciao amore, come stai? Tutto bene? Bene, voi tutto bene? Simona, Simona, le torte di Simona, buongiorno. Ciao Simona. Ma tu, ma alle 9, adesso parte tutta, alle 9 di mattina, voglio ti lasciare a letto, non ti puoi fare un paio detti di fatti tuoi. Va bene, allora, la ricetta del giorno che cucinerò, insomma. che assemblerà, non è un cucinare. Non ridere, perché... Dopo il baccalà, carne cruda. Allora, ovviamente tu sai, Simo, che noi parliamo oggi di carni rosse. Abbiamo preso il filetto e faremo questa tartare di filetto. Non gli abbiamo dato il nome. Sai che le ricette le chiamo solo con i nomi degli ingredienti, per essere più pratico nella comunicazione. Non tartare d'ottobre, va bene, no, sto cercando di guadagnare tempo. Va bene, essenzialmente devo tagliuzzare questo filetto con dell'olio d'oliva e sai... No, non con un coltello lo tagliuzzi, non con l'olio d'oliva. No, certo, lo tagliuzzo col coltello. Se ci provano con l'olio d'oliva, ragazzi... Ma questo mi pare evidente, dai. Dai, non mi prendere. Poi prendo il sale, sai, mi conosci troppo bene, Simo. Io il sale lo uso solo a scaglie, quindi queste scaglie belle grosse, certo, di questi sali. Sono scaglie di? Di sale. Sale Maldon oppure un sale di cervia, diciamo. Maldon di cervia. Sono questi sali molto interessanti che io e lo chef utilizziamo. Poi, però, per creare un elemento di contrasto rispetto a questa tartare, ho pensato, visto che questa è stagione, di appoggiare dei fichi e dell'uva. Perfetto. Ma perfetto. Come ti appoggio questi fichi e quest'uva? Naturalmente il fico lo devi pulire, sbucciare, sì, sentire se è dolce abbastanza. Chiaro. E l'uva anche l'hai tagliata. Sai l'uva Italia, quella con l'acino l'uva rosso? L'uva Italia, certo. Sbucciata, sì, tolto il semino e appoggiato sopra. Poi un velo di olio d'oliva e due foglie di? Di nepetella. Che è? Che è un'erba. Della famiglia? Della famiglia di? Adams. No, che è? Nepetella. Maggiorana, diciamo. Maggiorana o nepetella. Ma tu, Simo, ci conoscevi la nepetella? Sì. Bene, il fatto che mi accompagna a te non vuol dire che non conosca nulla. Ma io non ho capito perché adesso c'è questa tradizione, gli ultimi 5 minuti io devo essere insultato. Un consiglio, con le tue torte di cioccolato, la nepetella può andarci molto bene sopra. Oh, bene. Fagliela, provala. Ecco, no, dici una torta, facci sognare adesso, almeno tu che allora, sei del campo. La proverò con la carne rossa. Torta, io farei una crostata con la ganache al cioccolato e troverò questo elemento nuovo. Nella ganache, quando fai bollire il latte o la panna, metti qualche foglia di maggiorana, nepetella o direi anche origano fresco, fai bollire, lasci in infusione per una mezz'ora, filtri e poi sciogli il tuo cioccolato. E la ganache è fantastica. Ma scusate, mi piace. Sì, parlate fra di voi, uscite pure a cena insieme a questo punto. Direttamente, no, ma non sono geloso. Volevo capire, però, questa cosa mi cade pure il telefono. Ma che cos'è la ganache? Spieghiamola a chi non. Allora, beh, io uso solo panna. In realtà è una crema, si può chiamare crema, non lo so, di panna e cioccolato fondente. Sì. Fondi il cioccolato, si scioglie in una panna calda e poi effettivamente si può usare anche una parte di latte per renderla più leggera, cosa che a casa nostra non succede, quindi noi usiamo tutta panna. Ma se 15 giorni fa ho pubblicato una foto del frigo vuoto, c'erano soltanto bottiglie d'acqua, un paio di settimane ma fa. Ma infatti lo vedo molto in forma ultimamente. Sì, vero, ci sto vero, lo vedo molto in forma. Ragazzi, ci sto provando, nonostante mangia come parli, anzi lo sto usando come terapia. Comunque sta di fatto, sono le 10 di mattina e già mi avete fatto arrabbiare, ma adesso è il mio momento, perché è il momento della canzone del giorno. Oggi è il compleanno di un uomo straordinario, del leader dei Radiohead, che oggi compie credo 49 anni perché è del 68. E allora tanti auguri al signor Tom con No Surprises, anche se in realtà in cucina le sorprese ci piacciono. Surprises, auguri di buon compleanno a Tom York. E abbiamo una curiosità finale? Certo, le avremo per tutte le puntate. Ogni puntata daremo un consiglio sull'ingrediente che utilizziamo. Io direi, oggi abbiamo parlato di carni rosse e tu mi hai accennato anche di carni bianche. Sì. Allora mi viene da dire di dare un consiglio, che è quello di recuperare, nel momento in cui uno compra un pollo intero, la parte bassa della schiena. Ci sono, in italiano si chiamano bocconcini del prete, che di solito vengono quasi scartati al 99%. La schiena del pollo. La schiena, ma la parte bassa, che sono, fondo schiena sono del pollo. Una parte fantastica. In francese si chiamano solilès, che sarebbe stupido chi li lascia. Certo. E direi di recuperarli andando con un coltello a sfilettare. Sono due piccoli bocconcini che arrostiti appena appena su un riso o su uno spaghetto che a te piace tanto. Sì. Sono fantastici. Bene, bene, proverò. Cioè adesso già devo andare a casa a fare la tartare, che c'ho Simo che mi mena, e quindi poi con calma a livello successivo proverò anche il fondoschiena del pollo. Grazie a tutti. 349-238-6666, continuate a mandarci i vostri SMS soldani, continuate a scriverci 0246 52 41 84, la segreteria telefonica, la pagina Facebook, ci avete scritto in tanti e noi ci ciao, stiamo divertendo. Buona settimana grazie a tutti. A tutti. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.